Il buio è calato su Mondeggi, ma noi siamo sempre qua. La nostra postazione è sempre accesa e continuiamo la diretta dall'incontro nazionale di Genoneo clandestino, per chi si fosse collegato adesso a Radio Wombat. Incontro nazionale che si sta svolgendo proprio in Toscana, vicino a Firenze, a Mondeggi, nella fattoria senza padroni. Abbiamo trasmesso dei contributi di partecipanti all'assemblea che si è svolta nel pomeriggio fino a circa un'oretta fa. C'è stata un'interruzione per la cena, il programma riprenderà da domattina alle ore 9 con tutta una serie di tavoli che andranno avanti fino all'ora di pranzo, e poi oltre ci sarà la diretta dal corteo previsto a Firenze con la partenza alle 17.30 da Piazza San Marco, con l'arrivo in Santo Spirito con cena e musica a seguire. Se proprio non volete ascoltarlo su Wombat, vi consigliamo sicuramente di essere presenti in piazza. Siamo qua adesso però per diciamo tirare un po' le fila dell'assemblea che si è svolta questo pomeriggio. Potete trovare nel podcast, che sarà pubblicato quanto prima, tutti i contributi raccolti durante questo pomeriggio da varie realtà che fanno parte della rete di Genuino Clandestino, un po' da tutta Italia. Siamo andati ad ascoltare le voci di compagni e compagne dalla Sardegna, dalla Calabria, dal Lazio, dal centro Italia, fino ad arrivare a Milano. Abbiamo adesso invece a raccontare quello che è venuto fuori dall'assemblea. Abbiamo qua due rappresentanti, uno era addirittura il moderatore dell'assemblea, che quindi è sicuramente la persona che ha registrato tutto, più di tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao a tutti. Abbiamo anche invece un rappresentante mondeggino ai microfoni. A tutti. Bene. Allora, abbiamo visto che l'assemblea è iniziata con una domandona, quindi diciamo ogni realtà ha portato il suo contributo all'assemblea, e poi invece l'assemblea ha tirato fuori dei risultati, ha tirato fuori delle proposte. Allora, raccontateci un po' com'è andata, magari anche facendo un piccolo excursus anche sulla prima parte. Allora, intanto grazie Radio Wombat per questa bellissima postazione. Mai avuto una fresca, postazione così piacevole. Bella. Grazie a voi. E poi vorrei anche dire che la moderazione è stata proprio di gruppo, per cui siamo stati in tanti a domare circa 250 persone che poi in realtà si sono moderate da sole. Infatti una bellezza di questa plenaria è stata proprio la capacità di poter discutere alla fine senza che finisse in caciara, e questa insomma una cosa che speravamo di ottenere e ci siamo riusciti. Cominciata alla fine verso le 4:30, quindi anche in orario, altra cosa che non ci aspettavamo. Circa 20 reti presenti, più insomma tantissimi singoli che poi magari faranno parte di nuove reti, ci auguriamo, da domani o da oggi in poi. E è stata organizzata più o meno in tre parti. Voi avete discusso, so, della prima parte, cioè quella in cui, no, è stato si è parlato di questo domandone. Sì, esatto. Il famigerato domandone che per tradizione ogni rete fa alle altre reti, propone alle altre reti, in modo insomma da indirizzare un po' il tema di quella che è la plenaria. Il domandone nostro è stato abbastanza percepito, ha dato origine a un bel po' di discussioni, perché insomma era un domandone che usciva un po' dalle fila di quelle che erano le domande degli altri incontri, perché oggi chiedevamo proprio esprimevamo la nostra esigenza e desiderio di fare dei passi avanti come movimento nazionale, e quindi chiedevamo ovviamente un'approvazione, un parere, una discussione riguardo a ciò, a tutte le altre reti presenti. Quindi ovviamente dopo qualche minuto, dopo un po' di una prima parte in cui si è fatto fatica a rompere il ghiaccio, evidentemente perché insomma la domanda aveva toccato a più livelli di profondità i singoli e le reti. Poi invece pian piano si è creato un bel livello di discussione, in cui ovviamente siamo andati da chi era super entusiasta a chi ovviamente non lo era per niente, ma questo per fortuna nella ricchezza che dà l'ogni differenza, ecco, è un qualcosa in più che difendiamo tanto. E dopo siamo passati invece a una fase di elaborazione delle proposte, quindi ogni rete che rispondeva al domandone e ogni singolo che presentava la sua rete o si presentava come persona ha proposto qualcosa, e queste sono state poi elencate e nell'ultima ora sono state poi analizzate, discusse e la maggior parte poi approvate. Ecco, se poi possiamo anche andare un po' nello specifico delle, almeno dei punti più importanti che sono stati discussi e anche approvati. Allora, i punti più discussi, e chiedo ovviamente aiuto poi a Antonio qui al mio fianco nel caso in cui me ne dimentichi alcuni, però sicuramente sono stati quelli di iniziare a pensare a alla trasformazione concettuale dal tavolo tematico al gruppo di lavoro, quindi non più dei tavoli dove semplicemente si discute di certi temi, ma dei gruppi di lavoro che si facciano carico con responsabilità e con la dovuta ovviamente autonomia nei prossimi mesi di portare avanti un lavoro che proprio in questi tavoli verrà studiato e dettagliato. Un'altra bella proposta che è arrivata poi è stata ovviamente più che proposta proprio un invito, quello di far sì che esperienze come quelle di Mondeggi, Fattoria Senza Padrone, si possano in futuro replicare in altri territori, in altre terre abbandonate, devastate, eccetera. Ecco, Mondeggi è un po' preso come esempio, quindi, dalla rete di Genuino Clandestino. Sì, anche oggi appunto è stata nominata più volte la nostra esperienza, anche se quello che appunto continuiamo a ripetere è quello di è il concetto di non voler ricoprire questo ruolo d'avanguardia quasi, diciamo, assegnatoci dalla rete per come percorso, diciamo, di messa in pratica di quello che è poi il manifesto di Genuino Clandestino. Io penso che oggi il tema, diciamo, che è stato ampiamente discusso e su cui abbiamo dibattuto è quello dell'organizzazione in senso lato, sotto tanti punti di vista, e a questa richiesta, a questa domanda, a questo input che è quello di creare più livelli di organizzazione e del lavoro enorme che è stato fatto durante questi più 10 anni di Genuino Clandestino, è stato quello appunto di creare dei nodi territoriali che creassero, che cercassero di portare avanti nei territori quella che sono le pratiche appunto di questa rete attraverso mercati contadini in piazza, cercando di intessere relazioni con le lotte territoriali e di portare tutte queste, la ricchezza di queste differenze all'interno del movimento per raccoglierne la forza e appunto non la disomogeneità. E questo tema appunto è stato ampiamente dibattuto nelle quattro ore che ci siamo dati come assemblea plenaria, e penso che ci possiamo ritenere abbastanza soddisfatti di quello che è uscito da questa assemblea, anche se naturalmente i vari pareri sono quello che è uscito dalle reti, cioè che è proprio la produzione di una discussione che nei vari territori in Italia è stata fatta a seguito di questa domanda, ha poi dato luogo appunto a una bella discussione su cui noi naturalmente vogliamo continuare a battere il chiodo. E siamo passati, abbiamo fatto tra me e Antonio penso i chilometri oggi a portare il microfono di qua e di là, quindi già questo è sintomo del fatto che tanti volevano dire la loro, nonostante il primo momento di paura, perché quando si parla poi di organizzazione, strutture, ovviamente ci abbiamo dei traumi, perché tutte le organizzazioni e le strutture che conosciamo, ahimè, sono delle spranghe nel deretano di metallo inox, e quindi ecco, cercare di uscire da questa logica e cominciare davvero a mettere in pratica quelle che sono delle organizzazioni di autonomie orizzontali, ma che sappiano poi interfacciarsi l'una con le altre e uscire all'esterno anche comunque a volte con una con materiale comunicativo e formativo che sia condiviso e utile. Ecco, infatti la comunicazione è uno dei punti caldi della questione. Avete riscontrato problemi nel far passare le informazioni o farle passare nel modo giusto di fatto a tutta la cittadinanza e a chi ci circonda? Allora, noi come rete Comunità di Resistenza Contadina Cerona Rons credo che abbiamo fatto un buon lavoro di comunicazione ultimamente. Comunque non spesso, quasi mai penso, un incontro nazionale siano stati presenti radio, siano usciti così tanti articoli sui giornali, non sono mai state fatte conferenze stampa, cose che abbiamo provato a fare proprio per cercare di cucire, forse per la prima volta davvero, un rapporto città-campagna con tutta la cittadinanza, in modo da rendere aperto questo circuito, da rendere aperto il movimento a reti nuove, a singoli interessati anche solo ad aspetti tecnici della vita agroecologica e delle nostre esperienze. Quindi la comunicazione in realtà è un problema quando poi vai a vedere quelle che sono le infrastrutture già create, quindi per esempio può essere il sito o altre cose, che a volte per mancanza di persone e risorse umane, a volte anche economiche, vengono un po' abbandonate. E allora questo può causare un po' di frustrazioni in chi è più scettico. Però invece noi volevamo fare un'inversione, dare un'inversione di tendenza e cominciare a dire, forse cominciando a darsi piccoli obiettivi a corto o a medio raggio, è possibile arrivare a dei risultati e quindi uscirne, insomma, un po' più soddisfatti. Sì, diciamo anche, ecco, che l'aspetto della comunicazione è stato posto come gli altri, diciamo, all'interno di una chiave che però è un po' più globale, nel senso che sia la comunicazione che la formazione, che il mutuo aiuto e delle diverse tematiche di cui si è parlato oggi, abbiamo provato a dare anche una visione organica a queste tematiche, cercando di intenderle non appunto come una mancanza delle singole reti, ma di porla in maniera propositiva, cercando di spingere, diciamo, verso una maggiore organizzazione proprio in questo senso, tentando di sorpassare quelli che sono stati gli ostacoli di questi anni, cioè riuscire a prendere posizioni dall'interno verso l'esterno su alcune tematiche a cui naturalmente stanno a cuore tutte, come appunto si sono citate oggi la lotta di Notre Dame de Land, della SAD di Notre Dame de Land, come tante altre, e in diverse occasioni è stata questa forse anche la difficoltà di questo movimento, del cercare di esprimersi senza lasciare indietro nessuno. Ecco, questo io penso che oggi è stato proprio, abbiamo cercato di intendere l'organizzazione le infrastrutture, gli strumenti come mezzo attraverso il quale si può non lasciare indietro nessuno, ma anzi cercare di aiutare quelle che sono le reti che in determinate fasi sono più deboli, e cercare appunto di rendere la situazione nazionale anche più omogenea in questo senso. E più organica, di fatto poi organizzazione viene da quello, quindi da organico, quello che vogliamo cercare di passare. Ecco, sicuramente la comunicazione è un tema che a noi sta molto a cuore, infatti anche per questo che siamo presenti qua, proprio perché riteniamo molto molto importante che il mondo esterno più o meno esterno recepisca i messaggi così importanti che escono da situazioni come questa. Quindi possiamo ancora una volta ribadire che Radio Wombat è pronta ad accogliere le voci e a trasmetterle a più persone possibili. Però una cosa sulla quale volevo un po' scendere nello specifico è il mutuo aiuto, perché fra le persone intervistate oggi pomeriggio molte si sono hanno riscontrato, hanno mostrato, hanno detto che questo è un punto molto molto molto importante, in quanto tutte loro si trovano in situazioni di difficoltà per motivi diversi, chi per abbiamo visto in Calabria perché si trova a fronteggiare dei problemi sicuramente grandissimi e molto molto difficili, ma come può essere la 'Ndrangheta, ma anche in un centro Italia distrutto da un terremoto, ma anche in un'Emilia Romagna che è stata colpita da eventi atmosferici imponenti, che hanno messo a rischio le produzioni e hanno anche distrutto le produzioni di agricoltori. Quindi su questo volevo delle precisazioni, ecco. Alla fine, guarda, mutuo aiuto è quando chiami il tuo amico e gli chiedi: mi aiuti a cambiare la ruota del motorino? Allora, da soli non si va da nessuna parte. Quindi il mutuo aiuto, secondo noi, è la base con cui si riescono a tessere relazioni, con cui si riesce a condividere dei lavori senza cadere in tutte quelle logiche di subordinazione che la logica del lavoro da un bel po' di anni a questa parte invece ci vuole imporre. È un modo, per esempio, partendo sempre dall'esperienza nostra come rete fiorentina, ci sta dando l'opportunità, a parte di conoscerci meglio, poi proprio di sperimentare, no? Delle forme in cui si riesce a lavorare bene, insieme, meno, spaccandosi meno la schiena, ottenendo risultati olisticamente parlando più evoluti. Ecco, è uscito nel senso, quello che volevo chiedere è se dall'assemblea è uscito qualche strumento nuovo da poter utilizzare in questo senso, o una forma di organizzazione particolare? Sì, diciamo che ci sono anche diversi livelli su cui Genuino Clandestino, sia come rete che a livello di movimento, si attua e si porta avanti. Diciamo che il livello principale su cui tutte le reti si basano e cercano di lavorare in questo senso è quello di creare nel proprio territorio, all'interno del proprio collettivo, un senso e una pratica di mutuo aiuto reciproca forte. Io solo in questi ultimi mesi, nel neonato gruppo di comunità di resistenza contadina Jérôme Laronze, abbiamo affrontato insieme diversi problemi, da uno sfratto in montagna a una stalla da ricostruire, a degli olivi da potare, una vigna da legare, insomma tutta una serie di lavori pratici che hanno creato anche tra di noi dei legami stretti, forti e saldi, anche se in così pochi mesi. Quindi diciamo che questo è un livello imprescindibile per poter parlare di mutuo aiuto anche a livello nazionale. Quello che invece come assemblea plenaria oggi ci siamo posti come domanda e alla quale abbiamo ricevuto delle proposte è quello di creare dei percorsi come delle carovane, come appunto dei gruppi itineranti che possano aiutare e supportare i vari nodi e i vari produttori di genuino clandestino durante momenti particolarmente difficili, o anche momenti positivi, però attraverso i quali si possa riuscire uscire rafforzati. Queste, diciamo, sono state le proposte anche di oggi nell'assemblea plenaria, che domani verranno discusse nel tavolo di lavoro del mutuo aiuto. E però, appunto, ripeto, tutte queste proposte si inquadrano in una visione, in un contesto che non è slegato, diciamo, il mutuo aiuto dalla formazione, dalla comunicazione, dalla creazione di uno spazio comune di dialogo, di confronto, di analisi. Quindi diciamo, ecco, secondo me appunto è uscita in questa chiave anche la questione del mutuo aiuto. Poi non so, Nico, se... No, sono assolutamente d'accordo, ci sarà proprio... Credo che nei prossimi mesi si intensificheranno, insomma, gli scambi tra reti, perché a livello non solo sottile ma anche spesso questo desiderio l'abbiamo espresso, l'abbiamo trasmesso, e insomma non resta che vedere. Ecco, un altro punto che avete affrontato è quello della formazione. Formazione in materia, immagino, di cultura, di allevamento e non solo, forse? Formazione, sì, è un mondo enorme, è un universo che racchiude una formazione ovviamente rivolta verso l'interno, verso di noi, quali sono le nostre debolezze, in cosa siamo carenti e quindi di quali risorse abbiamo bisogno per riuscire a colmare le nostre lacune come reti principalmente. Poi è una formazione verso l'esterno come quella per l'appunto che viene fatta qui a Mondeggi, la scuola contadina, per chiunque volesse imparare, no, tutte le varie pratiche agroecologiche, dalla viticoltura, olivicoltura, orticoltura, ecco. Quindi la formazione è sempre un campo dove bisogna stare molto attenti a non rimanere sui grandi sistemi, perché si va dal mondo accademico fino ai vademecum, alle brochure informative, ai piattaforme internet, alle scuole contadine, sono grandi mondi. Quindi in questi 6 mesi abbiamo cercato, in base alle decisioni prese 6 mesi fa a Fabriano dall'ultimo incontro nazionale, di portare a termine o comunque di portare avanti 2 o 3 di quelle che erano dei passi che reputavamo necessari da fare dal punto di vista della formazione sia interna sia esterna. Per esempio, una di queste cose è stata la creazione di un database, di un censimento di quelle che sono le necessità da una parte, ma anche invece le competenze di ogni rete. Siamo riusciti nel giro di pochi mesi a raggruppare circa la metà di queste informazioni su un totale di 30-35 reti, ne abbiamo una quindicina, quindi il lavoro andrà avanti, però intanto insomma ogni rete si è messa lì, ha iniziato a pensare qual è la nostra vocazione, in che cosa siamo bravi, in che cosa possiamo essere d'aiuto, nel mutuo aiuto per l'appunto, perché poi le cose si uniscono, si fondono, certo. E in che cose invece abbiamo bisogno, dov'è che possiamo chiedere aiuto e dobbiamo chiedere aiuto. Si parte da questo, no? Secondo noi l'idea era, le relazioni nascono nel momento in cui anche tra persone, una persona ha bisogno di qualcosa, l'altro può dare qualcosa. Nello stesso modo si ragiona a livello di rete e nello stesso modo si dovrebbe ragionare, eccetera, sì, eccetera. Diciamo anche che appunto ci sono anche sull'aspetto della formazione moltissimi diversi piani su cui la intendiamo. Appunto, uno è quello che descriveva Nicco, che è quella rivolta verso l'interno. E a proposito di questa, naturalmente, come chiedevi tu, non si pensa alla formazione esclusivamente come formazione agricola o professionale rispetto a questo o quell'argomento specifico, ma anche proprio una diverse modalità di formazione, tra cui anche la capacità di mettere in campo delle risorse, a volte anche economiche, per poter formare sia politicamente che praticamente persone che fanno parte di tutti, no, di genuino clandestino. Quindi anche le proposte andavano in questo senso. Siamo, diciamo, affollati in Italia e in Europa di eventi di formazione che questa o quell'organizzazione propone, e per cercare di anche entrare nel vivo di quella che è la politica extraparlamentare, che riesce a mettere in campo, diciamo, tutte le proprie conoscenze e la loro capacità di analisi. Diciamo che questa è anche, penso sia un obiettivo sicuramente, almeno del nodo territoriale fiorentino, quello di cercare di formarsi su più aspetti possibili riguardo sia alla vita contadina, sia appunto alla lotta anticapitalista e a tutte le possibilità di vita alternativa che riusciamo a immaginarci e a proporre. Sì, una grande vittoria sarebbe se domani ci chiamassero, che ne so, vicino a Camboache, a Campobasso, e ci dicessero: qua vicino c'è un terreno abbandonato, sappiamo tutti che è abbandonato, era della provincia e adesso non si sa più nemmeno di chi è, e abbiamo le forze, le energie per rimetterlo in produzione, cosa possiamo fare, come possiamo farlo, ci date degli strumenti? E lì allora partono le varie... No? Quello sarebbe già, per esempio, sarebbe una cosa stupenda. Domani sarebbe un risultato sicuramente eccezionale. Sarebbe bellissimo, perché a quel punto davvero non solo formazione tecnica, ma anche come dotare di strumenti utili a cominciare a cambiare proprio il modo di esistere. Ci sono altri punti che avete toccato e vi preme passare? Beh, sicuramente una proposta molto interessante, non so se tra l'altro l'ho già detto, non voglio ripetermi, però è stata quella di proporre una, è stato proposto di svolgere il prossimo Genuino Clandestino al sud, in Salento, una regione che, come tutti sappiamo, ora è afflitta dal progetto della TAP. E quindi per riuscire a stringere dei legami politici, relazionali e umani con le persone che vivono e resistono in Salento a questa mega opera, è stato proposto appunto di svolgere il prossimo incontro di Genuino Clandestino in quelle terre. Questa secondo me, anche secondo me almeno, è un dato molto positivo che dimostra il fatto che Genuino Clandestino non vuole rimanere un movimento asettico, autoreferenziale, che parla esclusivamente di contadini, quando appunto i dati che abbiamo in Europa dimostrano quanto il settore primario, soprattutto inteso come lo intendiamo noi, cioè privo di sfruttamento, auto-organizzato, autogestito, sia veramente... diciamo abbia numeri veramente bassi, ma anche che appunto riesca a intrattenere relazioni con le lotte che vivono nei vari territori, sia d'Italia che del mondo. Anzi, oggi sono stati fatti più riferimenti alla ZAD di Notre Dame de Land e di quanto anche vogliamo sentirci vicini e vogliamo esprimere la nostra vicinanza anche fisicamente a questa lotta. Quindi ecco, sono usciti vari pareri di questo tipo e siamo soddisfatti che si caratterizzi sempre anche come un'assemblea molto molto politica e di contenuti e non riguardi, che non riguardi soltanto appunto le tematiche della contadinanza, ma che riesca ad abbracciare più anzi, argomenti direi possibili. Direi che ho sentito parlare forse ancora più che di culture, ho sentito parlare di antifascismo, di antirazzismo, di antisessismo, quindi questo insomma vi fa onore. È rappresentativa anche del fatto che le persone presenti a questa assemblea non sono certo persone che guardano al loro piccolo orto, ma guardano anche a quello accanto e anche a quello accanto. Sì, orti fino alla Norvegia, fino al Chiapas. E ci tengo solo a dire un'altra cosa che non so se è uscita, che sono venuti da fin qua anche proprio dalla Francia. Sì, l'avevamo citato, ma se ci puoi dare anche delle precisazioni non ci pare il vero. Volentieri, perché insomma questo è un esempio di come poi quello in cui crediamo e quello per cui lottiamo insomma superi le qualunque tipo di frontiere, di barriera. Per cui circa un anno fa, il 20 maggio 2017, in Francia fu ucciso un ragazzo, un allevatore, Jérôme Larons. E successivamente insomma si sono dai gendarmi francesi, che cercavano di costringerlo, obbligarlo insomma a seguire certe procedure come il sottocutaneo, i chip sottocutanei alle capre e altre cose, con una certa insistenza. E ai suoi tentativi, dicevano la Ronz, di evitare che ciò succedesse, insomma è finita in sparatoria. Gli hanno sparato di fatto? Gli hanno sparato e l'hanno ucciso, dando poi scuse che lui aveva cercato di compiere atti contro la gendarmeria, quando poi tutte le prove dai fuori di proiettili al modo in cui è stato ucciso dimostrano il contrario. In tanti si sono mossi ovviamente poi per in solidarietà nei confronti di Jérôme Larons. In Francia si è venuto a creare rapidamente un movimento che ha unito vari collettivi, da Finisterre, dalla Bretagna insomma fino alla Provenza, e siamo riusciti in un paio di mandate ad andare a trovarli, a partecipare alle loro assemblee. Abbiamo come rete territoriale preso spunto, ci siamo ispirati proprio al nome di Jérôme Larons perché insomma queste cause sono globali e è molto emblematico questo, ciò che è successo. E insomma, e oggi sono qui, sono partiti dalla Francia in 9 affittando un furgone, sono venuti, parteciperanno alla manifestazione di domani, si presenteranno e parleranno in Santo Spirito. E questo è un esempio, secondo me, di un mutuo aiuto, che non c'è neanche bisogno di chiamarlo mutuo aiuto, cioè semplicemente una rete di relazioni genuine. Bene, allora vorrei replicare l'invito per domani al corteo per tutti gli ascoltatori. Domani sarà importantissimo essere tutte in piazza, e quindi appunto rinnovo l'invito ad essere con noi e a supportarci, a resistere e lottare anche domani attraverso il corteo. Ecco, ricordiamo il corteo che è proprio in solidarietà Mondeggi, Bene Comune, che sta affrontando un periodo, insomma, una situazione piuttosto difficile a causa dei tentativi di vendita da parte della città metropolitana di Firenze. Oramai tentativi di vendita che vanno avanti da diversi anni, sono andate vuote, sono andate deserte a diverse aste, 3 se non mi sbaglio. No, è così, è più di 10 anni che cercano di vendere questo bene pubblico attraverso aste, ma non vi riescono, e tuttora le prospettive di vendita, a causa purtroppo della nostra scomoda presenza. Ecco, la vostra scomoda presenza che non passa inosservata alla città metropolitana, anzi avete anche ricevuto visite da parte delle forze dell'ordine e dei vari tecnici delle amministrazioni. Vi hanno addirittura murato una stalla, se non mi sbaglio, qualche tempo fa. Sì, la muratura di una stalla, vari interventi, c'è stata chiusa una casa l'anno scorso, soprattutto in questo mese, il 9 aprile, è cominciato il processo per invasione, furto e furto aggravato a 17 compagni di Mondeggi. Furto aggravato, eh? Sì, e invasione. Fa quasi ridere, poi in verità cioè, non si può ridere queste cose, perché però suona veramente ridicolo questa cosa. Ah, sì, esprimiamo sempre la nostra diciamo la nostra indignazione nei confronti di questa che può essere chiamata la peggiore amministrazione pubblica italiana, probabilmente, che ha partorito personaggi come Matteo Renzi, Dario Nardella, insomma personaggi di alto calibro nel mondo delle merde. Assolutamente, ci trovi concordi. Devo dire che noi, buona parte delle nostre azioni sono appunto la diffusione di informazioni che danno una prospettiva ben diversa da quella che viene passata dalle amministrazioni e dai media, dai giornali, che non fanno altro che scorinzolare dietro a questi soggetti. Si potrebbe citare veramente tantissimi esempi la Nazione è forse in cima alla lista della diffusione di baggianate. E noi cerchiamo di invece poi di rendere merito a chi le azioni le fonderà e a chi invece ha un progetto ben definito dietro ad ogni passo. Continuate così, Wombat. Viva Radio Wombat. viva Radio Wombat. Viva, ragazzi, detto questo, non so, voi sarete un po' stanchini, immagino, e la preparazione di questo evento. Cioè, una roba, da quanto ci state lavorando? Tutta la vita. Tutta la vita. Tutta la vita che aspettiamo questo momento. Sì, sì. E adesso è l'ora di svagarci un po'. Sì, assolutamente. Comunque, allora vorrei fare l'ultimo ringraziamento che è proprio ai compagni del Comitato di Resistenza Contadina Jérôme Laronze, che in questi mesi ha lavorato in maniera assidua, costante, creando proprio un sistema prima di tutto di relazioni personali incredibile, che è riuscito a mettere in piedi una 3 giorni organizzata veramente a pennello. Quindi siamo lasciatevelo dire, siete bravissimi, perché cioè, siete partiti precisi alle 4:30, una cosa che ma io succederà più, questo deve passare Radio Wombat. Noi Noi contavamo un po' sul fatto che aveste cominciato tardi, infatti siamo arrivati tardi per problemi tecnici, però e invece no, proprio precisi. Oh. E cos'è? Cominciamo a dire che i contadini sono precisi a volte. Si va con la luna, dai, dipende dal periodo. Bene, grazie mille ancora. Radio Wombat. Va bene, dai, allora noi vi salutiamo, riposatevi perché la giornata di domani è lunga. Giornata che inizierà alle 9 con tutta una serie di tavoli tematici che andranno a sviluppare gli argomenti trattati quest'oggi. Tavoli tematici e addirittura tavoli pratici nell'immediato post prandiale. Quindi Radio Wombat sarà qui, non smonterà il banchino, sarà presente con domani con una diretta come domani oggi. E ci vediamo al corteo. Magnifica. Bene. Buona serata. Buono. Si finisce qui. Direi. Si finisce qua. Canzoncina. Mando una canzoncina. Dai. Perché mi Dai. Sento così. Sì, mandiamo una canzoncina. Poi torniamo a salutare. E poi sì, si finisce. See you. I'm gonna break my Del lago ha fatto un'altra delagata. Si era dimenticato di voi, cari ascoltatori. Aveva lasciato tutto andare avanti. Sì, no, per poco in realtà. È che c'è un sacco di gente, c'è una bella aria. Sì, sì, c'è una bella aria fresca e un sacco di persone interessanti. Devo dire che attento se non muovere troppo ancora, perché qui salta. Sti cavi non funzionano mai. Prima o poi Radio Wombat avrà delle gambe più forti. Sì, e assolutamente. E più pro. Ricordiamo allora, il personaggio che più mi ha colpito è stato il cane che ci ha distrutto tutto. Il cane, a un certo punto sì, ridiciamola. C'è stato un cane che è fuggito dal nostro banchino portandosi dietro il nostro mixer. Proprio non in senso figurato, proprio così no, è andata. Se l'è portato allora. Dietro. Se l'è portato proprio dietro. E poi cos'altro, a un certo punto è andata via la luce, ma noi stavamo andando a cena, avevamo perfettamente chiuso, è saltato tutto. Abbiamo avuto mille problemi tecnici per arrivare a Mondeggi, compreso ci siamo rimasti imbottigliati nel traffico, non partiva niente. Comunque, a parte tutti questi problemi, poi siamo riusciti ad arrivare con grande felicità, siamo ancora qua. Ci apprestiamo a chiudere perché domani ci attende una lunga giornata. Che inizierà prestissimo. Perché come sa, i contadini, insomma, c'è Nino Clandestino. Sì. Ecco, non è che si parte all'11 con zero, calma. Ciao. Cioè, no, si va dritto alle 9 sui pezzo già pronti. C'è già colazionati, già pronti. Proprio. Assolutamente. Quindi noi non siamo proprio contadini, siamo un pochino. Un mezzo e mezzo, tutte sì, e due, dai, mezzo e mezzo. Quindi. Noi vi diciamo che alle 9 siamo in diretta, però magari forse più tardi, ma voi alle 9 pronti. Pronti, Tanti baci, cari ascoltatori belli, wombattini nostri cari. E wombattine, vi auguriamo la buonanotte. Oddio, magari un po' presto per augurarvi la buonanotte. Andate vi auguriamo buona insomma, serata. Andate a ballettare. Esatto, andate a divertirvi e ci sentiamo domani. Eia. Wombats.